Siamo con Marta Rizzo che insieme a Silvia Scola ha curato il progetto Fuori le ali, Mestieri del cinema come possibilità per gli ultimi, che verrà presentato il 24 aprile, prenderà l'avvio proprio ad Airola, in provincia di Benevento. Marta, benvenuta. Grazie a voi per averci ospitato, per Raccontaci averci un dato po'. questa creatura appena nata. Ce la presenti? Certamente, questa creatura, questa associazione è nata nel novembre scorso, quindi è veramente recentissima, ma chiaramente come tutte le cose di gruppo complesse che vedono legate e coinvolte tante realtà, soprattutto a livello sociale, ha una gestazione di un paio d'anni. Quindi diciamo che l'idea così a me era venuta tramite un intervento che avevo fatto per Repubblica.it, dove collaboro nel carcere di Re Bibbia, dove c'era un teatro magnifico ed essendo però una studiosa di cinema, avevo in mente sempre questa questione del cinema e quindi mi è sembrato opportuno portare tutto il cinema tra i detenuti. E così ne abbiamo parlato con Silvia Scola, che io conosco da 16 anni, la figlia di Ettore, che è una grande sceneggiatrice, con la quale abbiamo lavorato anche insieme in passato con Ettore, e sulla scia di tutte queste lezioni del grande cinema italiano. Noi diciamo che ci ispiriamo al cinema, a tutta la grande commedia, tant'è vero che la nostra idea per i ragazzi detenuti, ma in generale la nostra missione del progetto sta nel portare il cinema italiano, ma con la grande commedia all'italiana. Sebbene poi certamente i nostri riferimenti sono Grandi Fratelli Italiani, il grande Vittorio scomparso qualche giorno fa, Paolo è con noi nella nostra associazione e vorremmo curarcelo e portarlo sempre, sempre, sempre con noi. E Giuliano Montaldo è stato indispensabile per creare tutto questo, come lo sono stati tutti, Daniele Vicari, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Felice Laudadio, ma tutti. Devo dire Amnesty International, io scrivendo di diritti umani per Repubblica.it ho pensato di coinvolgere in questo progetto anche tutti delle realtà veramente impegnate nel sociale. E con questo gruppo di persone ampio che poi diciamo, per fortuna aumenta sempre di più, abbiamo creato appunto questa associazione dove appunto ci sono Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Gianmaria Volonté, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici con Laura Dellicolli, Amnesty International, il direttore generale, c'è anche il Ministero della Giustizia, ovviamente, la Regione Lazio, Cinemovel di Libera contro le Mafie, l'AGI Scuola, l'Associazione Produttori Televisivi Italiani, l'Avvocato Natalia Paoletti, l'Archivio di Darmo, siamo tanti. Sì. E portiamo cinque grandi commedie nel carcere di Airola il 24 aprile e per tutti i martedì fino al 29 portiamo dei film della grande commedia all'italiana che sono: cominceremo con Ricomincio da tre, quindi cerchiamo anche di portare i mestieri del cinema tra i ragazzi, i mestieri del cinema intesi come base attraverso la quale loro possano capire come il cinema non sia semplicemente quel sogno favoloso che è il film finale, dove certo poi compare come unico grande nome il regista, ma il cinema è fatto di mestieri concreti, reali, specifici, molto pratici, ecco, e proprio tecnici, è questo che noi vogliamo dire a tutti coloro che incontreremo nei nostri viaggi di fuori le ali. Intendiamo non solo andare nelle carceri, noi avremo anche un appuntamento alla Casa delle Donne, poi, ma prima andremo di nuovo nel carcere minorile di Roma, però a Casal del Marmo, e poi abbiamo un progetto per le scuole di periferia, dove veramente l'idea non è quella di portare il cinema come grande arte, che poi lo è, ma è un'arte composta da singoli mestieri molto specifici assemblati insieme. E quindi noi porteremo trucco, parrucco, montaggio, suono, fotografia, oltre che regia, montaggio. Con noi c'è il grandissimo Roberto Perpignani, che tra l'altro è il nostro direttore artistico. Portiamo quello, delle nozioni, diciamo così, ma senza nessuna voglia di impartire lezioni straordinarie. Portiamo delle nozioni su quali sono i mestieri del cinema e sul fatto che oltre la devianza, il disagio, la povertà, il dolore, perché poi non dimentichiamo che noi andiamo nelle carceri dove certamente questi ragazzi stanno per aver commesso dei reati, ma sappiamo anche che tutti noi dell'associazione andiamo lì con l'idea, non certo di dare la soluzione alle loro vite piuttosto drammatiche, ma certamente di aprire uno spiraglio in loro, in questi ragazzi, nei ragazzi delle scuole difficili di periferia della città di Roma, nei centri antiviolenza, alla Casa Internazionale delle Donne, per difendere, in un momento in cui si parla tanto dei diritti delle donne violati, per difendere anche i diritti delle donne violate. Sì. Noi portiamo Ricomincio da tre, poi porteremo Il Sorpasso, poi porteremo Amici miei, C'eravamo tanto amati, e La banda degli onesti. Questo portiamo perché ridere è fondamentale e si dicono cose molto serie ridendo. Dare una idea di rivincita a questi ragazzi, o comunque dare l'idea che ci sono dei mestieri che si possono fare. Tutto questo ci è venuto in mente sapendo che altri prima di noi, come per esempio l'associazione CDO2 di Giulia Minoli e Giulio Agostini, che da anni lavora nelle carceri, quindi molto prima di noi, facendo però progetti sui mestieri teatrali, sapendo che un giovane detenuto, dove la CO2, in un carcere dove la CO2 ha lavorato, un giovane detenuto è uscito dal carcere e attraverso quel laboratorio fatto con Giulia Minoli e Giulio Agostini, attualmente ha un contratto in un teatro dove lavora come macchinista. E già questo unico primo esempio, diventa, beh, per noi una speranza straordinaria. Magari non riusciremo ad arrivare a tanto, ma ci proviamo insieme a Dacia Maraini, insieme a Luciana Castellina, insieme ad Altan che ci ha fatto il logo. Sì, ho Io visto. devo dire, non me l'aspettavo quando abbiamo chiamato Altan, così in preda ad un momento, anche un po' insomma, di incoscienza, perché poi lui è molto schivo più che altro, non perché sia inarrivabile, ma perché è una persona veramente molto schiva, timida fondamentalmente. E quando gli abbiamo mandato il progetto, Altan, dopo qualche giorno, senza dire niente, senza fare domande, senza eccedere in nessuna parola inutile, ha inviato questo logo straordinario dove ci sono, dove si vede una finestra con delle sbarre molto buia e esce fuori un essere che sembra essere un angelo, un piccolo angelo, una piccola cosa con le ali e che tiene una macchina da presa. Ecco, questo logo è di per sé difficile raccontare un'immagine, perché è di per sé come dire, romantico, ecco, è anche molto esplicativo di quello che vogliamo fare noi. Cercare di portare una luce, anche ridendo, anche e soprattutto ridendo, con la grande commedia all'italiana. Con Benissimo. Totò, con Troisi, con amici miei, con Monicelli, con Scola, che ce li porteremo sempre assieme a noi. Benissimo. Allora, in chiusura ci dai anche dei riferimenti internet per seguire il progetto? Ecco, piano piano, perché noi stiamo appena nascendo e quindi Ok. abbiamo in lavorazione il nostro sito web e quindi lo stiamo creando e volendo fare tutto per bene, anche gradualmente, non siamo in grado in questo momento ancora di Ok. fare un sito web. La nostra mail è silks@libero.it. I nostri recapiti sono quello di Roma 06 86032225 e il nostro cellulare 347 86 74095. Noi siamo in via Cheruse 12, dove c'è la sede legale della nostra associazione e cominciamo subito, cominciamo da martedì, io e Silvia Scola saremo ad Airola e speriamo anche il giudice Giacomo Ebner, che è il giudice minorile, che si è occupato del progetto, con tutto il Ministero della Giustizia e il Dipartimento Minorile di Comunità, che noi anche vorremmo ringraziare. Ma i magistrati hanno sempre molto da fare, quindi compatibilmente con i suoi impegni. Io e Silvia Scola sicuramente alle 3 del pomeriggio del 24 aprile porteremo Ricomincio da 3 a questo gruppo di ragazzi. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento il 24 aprile con Fuori le ali nell'istituto penitenziario minorile di Airola, in provincia di Benevento. Un saluto e un ringraziamento a Marta Rizzo. Marta, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, in bocca al lupo a voi, crepi il lupo, buona serata, grazie.